Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi a Confcommercio, in Italia siamo tutti spiati. Pomigliano, la Marcegaglia, la FIOM, la vostra una scelta incomprensibile, a GR24 ospite Sergio Cofferati. Niente protezione a Spatuzza, in commissione dubbi dei Finiani, perplessi i magistrati. Nuovo allenamento per gli azzurri, per Buffon, tante incertezze. Ancora una buona giornata dalla redazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. 7,5 milioni di italiani intercettati. Il premier Berlusconi rilancia così nelle ore in cui si discute il disegno di legge in materia e sceglie la platea di Confcommercio. Buongiorno ad Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Non c'è occasione ormai in cui Berlusconi non ribadisca la necessità di un giro di vite sugli ascolti telefonici. Siamo tutti spiati e non lo tolleriamo più. Non c'è democrazia, dice il premier, che stima, secondo i suoi calcoli, appunto 7,5 milioni di intercettati in Italia. Ma sentiamo la voce del premier. Siamo tutti spiati in Italia. Ci sono in Italia circa 150,000 telefoni sotto controllo. Ci rendiamo tutti conto che così non può essere in un paese civile, che questa non è una vera democrazia, non è tutelata la nostra libertà di parola, l'inviolabilità delle nostre comunicazioni è qualche cosa che noi nella generalità, tutti noi, non tolleriamo più. Sul provvedimento all'esame della Camera il Premier ha detto: bisognerà vedere se una volta approvato il Capo dello Stato lo firmerà e poi i PM di sinistra si appelleranno alla Consulta che lo boccerà. Un Premier apparso scoraggiato, e così si è descritto lo stesso Berlusconi, perché in Italia ha detto non si può fare nulla senza passare tra le forze caudine di mille difficoltà. Tra l'altro il Presidente del Consiglio in Italia non ha poteri, così prevede la nostra Costituzione, e bisogna appunto riformarla. Berlusconi ha parlato dinanzi alla platea di Confcommercio, giudizio positivo espresso sulla relazione del Presidente Sangalli, il quale ha sostanzialmente promosso la manovra del governo, è impegnativa ma più contenuta di quella di altri paesi europei, ma Sangalli ha anche chiesto di avviare quelle riforme necessarie per favorire la crescita a partire dalla riduzione della pressione fiscale. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. E tra poco intanto i vertici del PDL si riuniranno proprio per discutere del cammino del DDL sulle intercettazioni. Allora, cosa si annuncia? Elisabetta Fiorito. Vertice PDL convocato in questi minuti a Palazzo Grazioli proprio per discutere di intercettazioni, come hai detto tu Anna, dopo il no dell'OSCE, ricordiamo, l'organismo per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ma soprattutto si discuterà del no dei Finiani alla blindatura del testo da parte di Silvio Berlusconi. La maggioranza del partito vuole approvare il disegno di legge entro l'estate, mentre la corrente che fa capo a Gianfranco Fini vorrebbe apporre ancora delle modifiche. Il provvedimento alla sua terza lettura inizierà il suo iter in Commissione Giustizia della Camera domani. A quel punto si vedrà cosa succederà. Berlusconi minaccia di espellere dal partito chi dovesse votare contro la blindatura. Da parte dell'opposizione interviene il segretario Pierluigi Bersani del PD, che respinge l'idea secondo la quale il disegno di legge ricalcherebbe la famosa bozza Mastella proposta dall'ex governo di centrosinistra e mai diventata legge. Per Bersani è radicalmente opposto. Lì si responsabilizzavano i PM sulla fuga di notizie. In questo provvedimento del Popolo della Libertà si vuole impedire di fare le intercettazioni. E il Popolo Viola inizierà alle 15 un presidio permanente davanti a Montecitorio per protestare contro il disegno di legge. Per il momento da Roma è tutto, poi studio. Grazie anche Elisabetta Fiorito. Intanto l'altro provvedimento che prosegue il suo cammino parlamentare è la manovra. Si andrebbe ad un'apertura verso le istanze presentate dalle regioni, così almeno ha annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani dopo l'incontro con i gruppi parlamentari di maggioranza ed opposizione sulla manovra finanziaria. Ma intanto oggi, dopo che ieri è scesa in piazza la scuola, è il giorno della protesta dei medici. Contestano il blocco del turnover e il dimezzamento dei precari, che rischia di far diminuire, dicono, il numero dei medici di 20,000 unità in 4 anni, e contestano anche il taglio di 10 miliardi delle risorse delle regioni, con inevitabili ricadute, dicono ancora, sulla sanità. Chiara Di Michele ha intervistato il ministro della Salute Ferruccio Fazio. Io invito tutti a non essere allarmisti in un momento realmente difficile per il Paese. Nessuno credo voglia un collasso del Paese. Quindi ribadisco la nostra disponibilità a rivedere la manovra a conti invariati, ma ribadisco anche l'invito a non parcellizzare le proteste associazione per associazione, perché non penso che sia conveniente per nessuno. Alle prese coi conti anche gli altri paesi europei, e in Francia il governo ha annunciato l'allungamento dell'età per la pensione. Sauver notre système de retraite est un impératif. Salvare il nostro sistema pensionistico è un imperativo. Così il ministro francese del lavoro Eric Woerth ha annunciato la riforma delle pensioni d'Oltralpe, insistendo sulla necessità della riforma, un obbligo morale stando alle sue parole. Woerth ha presentato l'essenza del piano del governo, e secondo questo piano l'età minima pensionabile verrà gradualmente alzata dagli attuali 60 anni a 62 entro il 2018. Un disegno di legge in materia sarà presentato al gabinetto di Nicolas Sarkozy il mese prossimo e la riforma arriverà in Parlamento a settembre. Tuttavia, l'opposizione e i sindacati hanno già bocciato il piano dell'esecutivo e parlano in coro di una riforma ingiusta. Così i sindacati hanno annunciato scioperi e proteste per convincere il governo a fare dietro front. Igor Fiatti, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Torniamo alle vicende italiane. Il 22 giugno prossimo un referendum tra i lavoratori deciderà del futuro dello stabilimento Fiat di Pomigliano. Oggi intanto scambio di battute tra la presidente degli industriali Emma Marcegaglia e il segretario della CGIL Guglielmo Epifani. È incredibile che davanti a un'azienda che va contro la storia, prende produzioni dalla Polonia e le riporta in Italia, investe 700 milioni di euro, davanti a una situazione di questo tipo ci sia un no. Quindi attendiamo a questo punto di capire che cosa vogliono fare i lavoratori. Tocca alla Fion decidere cosa fare in materia di referendum. È corretto che la Fion dica ci sono materie non disponibili al referendum, e però è altrettanto importante che i lavoratori siano coinvolti, partecipino. Quindi vedremo nei prossimi giorni. A occhio e croce direi che i lavoratori andranno a votare, e a occhio e croce immagino che i lavoratori diranno sì. Per quello che mi riguarda è un sì all'occupazione, al lavoro e agli investimenti. E tra poco torneremo a parlarne, ospite ai nostri microfoni, avremo attorno alle 13.15 l'ex segretario della CGIL, Sergio Cofferati. Ha sollevato non poche polemiche, parliamo ora invece d'altro, la decisione del Viminale di non ammettere al programma di protezione speciale il pentito delle stragi di mafia, Gaspare Spatuzza. Il vicepresidente della Commissione Antimafia, Fabio Granata, deputato finiano del PDL, si dice colto di sorpresa e annuncia chiederemo spiegazioni. Colti di sorpresa anche i PM, io saluto Nino Amadore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, colti di sorpresa, che può succedere ora e perché questa decisione? Ma diciamo la decisione arriva ed era già stata annunciata a suo tempo da sottosegretario Mantovano, perché Spatuzza non avrebbe raccontato, non avrebbe detto tutto entro i 180 giorni previsti dalla legge del 2001. Diciamo si appunta su degli aspetti, delle scadenze e su un formalismo giuridico, come dicono in tanti, che insospettisce a distanza di tempo, almeno questo sostengono alcuni. Cosa può succedere? Intanto c'è il ricorso presentato al TAR, presentato dall'avvocato di Spatuzza, e quindi vedremo cosa deciderà. Sul piano processuale non succede nulla, Spatuzza è stato ritenuto attendibile e quindi è stato ascoltato anche in dibattimento per rendere per dare valore alle cose che lui racconta, e quindi sul piano processuale non succede nulla. Succede molto invece sul piano politico, sul piano dell'esempio che viene dato agli altri collaboratori di giustizia, alle conseguenze che questo può avere nel sistema delle collaborazioni sicuramente questo è un precedente che non aiuta, come giustamente dicono anche i magistrati. Grazie Nino Amadore. Aggiungiamo notizia dell'ultima ora che arriva invece da Roma. A nome del governo, Alfredo Mantovano ha appena annunciato: sono pronto a riferire in commissione antimafia sulla non ammissione del boss Spatuzza al programma di protezione. Altra notizia di questi minuti: è stata confermata in appello la condanna a 16 anni di reclusione per i quattro romeni accusati di aver aggredito e violentato, ricorderete, nel gennaio del 2008 a Guidonia, nord-est di Roma, una coppia di fidanzati che si era appartata in una strada di campagna. Confermata la condanna a 16 anni. Ora andiamo invece a Napoli, dove rispunta l'emergenza rifiuti. Sono bastati due giorni di sciopero dei dipendenti della SIA, l'azienda che si occupa del servizio raccolta, per far riaffiorare lo spettro dell'emergenza rifiuti. Cumuli di spazzatura ammassati agli angoli delle strade e cassonetti sommersi dai sacchetti di immondizia. A Napoli sono 1.400 le tonnellate di rifiuti non raccolte. Proprio nel momento peggiore della stagione, con il caldo che rende tutto più complicato, aumentando l'allarme igienico-sanitario, i lavoratori della SIA hanno deciso di incrociare le braccia per protestare contro l'assenza di un piano industriale per il ciclo dei rifiuti. Intanto, durante la notte si sono verificati nuovi episodi di rifiuti dati alle fiamme, decine gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nelle zone del centro della città. A Terzigno, un tir che trasportava rifiuti verso la discarica è stato colpito dal lancio di una tanica di benzina. Una parte del mezzo è stata avvolta dalle fiamme. Nessun problema per l'autista, che è riuscito a staccare la motrice. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Il maltempo ha colpito duramente la Francia. Nel sud-est del paese, piogge torrenziali ieri e anche stanotte. 200.000 case sono prive di elettricità, traffico stradale e ferroviario in tilt. I morti sono almeno 10, ma ci sono dispersi. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama incontrerà tra poco i vertici della British Petroleum. Ieri dallo studio ovale ha parlato alla nazione con toni battaglieri, assicurando il massimo sostegno alle zone colpite dalla marea nera e lanciando la sfida per l'energia pulita. Alle 13.45 ne parleremo in America 24. Ma ora parliamo di calcio, dei mondiali di calcio. Oggi occhi puntati su Honduras-Cile alle 13.30, alle 16 invece il debutto della Spagna contro la Svizzera, alle 20.30 Sudafrica-Uruguay, con i padroni di casa a caccia della vittoria per non diventare l'unica nazionale ospitante a non superare la prima fase del torneo. E intanto cominciano ad arrivare al pettine i primi nodi per i tifosi giunti in Sudafrica per il mondiale. Il nostro inviato. Scioperi, biglietti, trasporti. Sono le tre spine nel fianco di Sudafrica 2010. Problemi interconnessi e di non facile soluzione. Gli steward negli stadi e gli autisti di molte compagnie di bus pubblici stanno scioperando. Causa orari di lavoro e stipendi che arrivano col contagocce, ridotti del 60% rispetto al previsto. Risultato? Tifosi bloccati o all'ingresso di alcuni stadi sotto pioggia e freddo, vedi Cape Town e Durban, o che neppure riescono ad arrivare negli impianti in tempo per la partita. E qui si arriva ai vuoti sugli spalti, che non corrispondono ai numeri dei tagliandi venduti, secondo la FIFA sempre vicino al tutto esaurito. Colpa dei trasporti, certo, ma anche di chi i tagliandi li ha acquistati in prevendita. La Federcalcio Mondiale sta indagando, mentre il quotidiano Business Day si è divertito a fare i conti in tasca agli enti pubblici sudafricani per vedere quanto hanno speso in biglietti della Coppa del Mondo da regalare a staff, amici, ospiti. Totale che sfiora i 38 milioni di rand, pari a circa 380.000 euro, sull'uso dei quali il Ministero delle Finanze ha già dichiarato di voler chiedere chiarimenti. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore, Johannesburg. E mentre gli azzurri tremano per l'assenza a tempo indeterminato del portiere Buffon, fermato da una scialtalgia alla schiena, il Brasile si gode la vittoria contro la Corea del Nord, un sofferto 2-1. Dobbiamo migliorare, ma è andata bene, dice Kakà al microfono di Dario Ricci. Bene partire con una vittoria, credo che questo è un fattore molto positivo di questa prima partita. Poi dobbiamo migliorare, certo, tante altre cose, però la prima partita è sempre un po' più delicata per l'ansia, per tante altre cose, però il risultato, la vittoria, i tre punti sono positivi. Tu come ti senti? Come stai come condizione fisica ora? Bene, sono contento della mia prima partita, perché non sapevo in che condizione potevo arrivare a questo mondiale dopo l'infortunio, però sono arrivato bene, sono riuscito a giocare 70 minuti oggi. Bene, sono contento della mia prima partita. Primo tempo difficile però, primo tempo difficile. Molto difficile, è difficile trovare una squadra che si chiudi veloce, si chiudi bene. però alla fine loro non sono riusciti a chiudere tutti i 90 minuti. Nel secondo tempo gli spazi, abbiamo creato più spazi, abbiamo fatto due gol e create altre possibilità di gol. Le 13:19 minuti e 30 secondi, le notizie di oggi di GR24. Berlusconi parla alla platea di Confcommercio. In Italia siamo tutti spiati, dice. Poco fa la replica della NM, i numeri smentiscono il Premier. Pomigliano, la Marcegaglia alla FIOM, la vostra una scelta incomprensibile. Tra poco a GR24 ospite Sergio Cofferati. Niente protezione a Spatuzza, il pentito che ha raccontato il periodo delle stragi. In commissione i dubbi dei Finiani, Mantovano, siamo pronti a riferire. Oggi nuovo allenamento per gli azzurri in Sudafrica, per Buffon tante incertezze. E come dicevamo, torniamo allora con un ospite. Saluto l'ex segretario della CGIL, oggi parlamentare europeo, Sergio Cofferati. Buongiorno. Buongiorno. Quanto è importante la vicenda Pomigliano, secondo lei? È importante, lo è senza dubbio. Si tratta di una delle più grandi fabbriche del Mezzogiorno, anzi forse oggi è la più grande. È importante anche perché le grandi aziende poi hanno un'incidenza rilevante sul sistema dei rapporti e delle relazioni tra le imprese e le organizzazioni sindacali. Io credo che si debba fare ogni sforzo per mantenere e rafforzare l'insediamento produttivo di Pomigliano. Qualcuno dice che in questo momento la FIOM non ha pieno controllo della sua base, forse gli operai di Pomigliano la pensano diversamente. Lei è d'accordo? Ma cosa vuole? È un tema antico e controverso che purtroppo nell'ordinamento italiano non è mai stato risolto. Io credo che sia indispensabile una legge sulla rappresentanza sindacale e che nessuno possa arrogarsi il diritto di rappresentare chi non vuole essere rappresentato. Questo ragionamento vale per la FIOM, ma vale ancora di più per gli altri sindacati che hanno anche una base associativa enormemente più piccola. Gli accordi vanno fatti approvare sempre con delle eccezioni. Se gli accordi contengono soluzioni che entrano almeno potenzialmente in contrasto con le leggi o ancor peggio con la Costituzione, non possono essere assoggettati alla normale procedura di approvazione. Nel caso specifico di Pomigliano, ma non solo, siamo addirittura al paradosso che chi oggi promuove il referendum ha negato il referendum per l'approvazione del contratto dal quale oggi vuole derogare, dunque il massimo dell'assurdo. Lei diceva Pomigliano va salvato perché in questo momento è la più grande fabbrica del sud, però la firma di ieri di fatto il dialogo almeno in questo momento è chiuso. Come si fa a riaprirlo? Mi sarei aspettato da parte della Fiat scelte molto diverse. La Fiat ha disponibile un contratto nel quale sono previsti turni a ciclo continuo, sono previste quote consistenti di straordinari, ma invece cercare di introdurre norme che addirittura violano la Costituzione, ci sono alcune norme che intervengono pesantemente sulla libertà di sciopero. Si apre un contenzioso nazionale e addirittura europeo. Un'azienda che vuole guardare con serenità il suo futuro non può imboccare una strada nella quale ci sono incognite di questa natura. Questo per la Fiat. Secondo lei tutta la CGIL ha capito la scelta della FIOM? Ma io credo che chi ha un minimo di esperienza sindacale non può non rendersi conto dei pericoli gravissimi che sono insiti in quell'accordo. È un problema complessivo, ma se lo fa la Fiat, perché non lo deve fare la piccola azienda in crisi della provincia di Varese? Varrà la deroga territoriale? Non credo. Il mercato deve essere uniforme. È uno scontro così duro e su principi tali che secondo lei si tornerà indietro, si salverà Pomigliano o finisce qui? Le confesso che non ho capito quali sono le intenzioni dell'azienda. Mi pare che stia, ahimè, prevalendo la politica, lo vedo anche dai commenti, il nuovo modello di rapporti, il riformismo. Il giorno dopo quell'azienda deve lavorare e produrre e se non ha oggettivamente le condizioni per poterlo fare nel migliore dei modi, il presupposto dal quale siamo partiti, il consolidamento della fabbrica, si vanifica. E d'altronde far pronunciare dei lavoratori sotto il condizionamento pesantissimo del rischio del loro posto di lavoro. È una pessima scelta. Troppa politica, secondo lei, in questa trattativa? Ma fino ad un certo punto mi è parsa una trattativa sindacale difficile, complicata. Da un certo punto in avanti è entrata a gamba tesa la politica. E pensare che lei per tanto tempo è stato accusato proprio di questo. Sì, ma è singolare. Le ho detto, ma i paradossi in questa vicenda sono tantissimi. Io credo che sia indispensabile una legge sulla rappresentanza sindacale. Grazie. Grazie a lei. Grazie per essere stato con noi. Il nostro tempo si conclude qui per l'intervista, abbiamo ancora però qualche minuto, voltiamo davvero pagina per parlare allora di spettacolo, di una moda che torna, oggi a salutarlo c'è una pioggia amazzonica e non un sole tropicale, parte a Milano il Festival Latinoamericano. Per un certo periodo è stata una gran moda. Sembrava che tutti dovessero frequentare almeno un corso di salsa o merengue, che le star latinoamericane non potessero che dominare anche le nostre classifiche, anche perché una bella vacanza nel Caribe era proprio irrinunciabile per chiunque. Messico, Santo Domingo, Brasile, come se fosse tutta la stessa storia. Ora la tendenza si è assopita e restano gli irriducibili appassionati, oltre al numerosissimo pubblico originario di Centro e Sud America. Riparte oggi il Latinoamericano Expo, il ventennale per il festival che ogni estate trasforma il Forum di Assago in una succursale del mondo latino. Per ballare, certo, per il cibo e i prodotti locali, ma gli organizzatori ci tengono. La parola d'ordine, oltre a musica e cucina, è cultura. E così, nelle 62 date previste, non ci sono solo orchestre da ballo e qualche gloria locale dal breve successo in Italia, come José Luis Rodríguez el Puma, Los Lobos o il bravo José Feliciano. Da Milano passeranno anche Gilberto Gil, Toquinho o Daniela Mercury. I detrattori chiosano, ci passano anche molte zanzare, ma forse è finita la moda? Anche loro sono vere appassionate e per questo molto esigenti. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E per il momento ci fermiamo qui, in regia Fabio Cantadori, ancora un saluto da Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione del giornale, GR24 come sempre torna alle 14, buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.